Steven Dedalus osservava attraverso i ragnateli della vetrina le dita del gioielliere che saggiavano una catena brunita dal tempo. Polvere ragnava il vetro e le bacheche nella vetrina. Polvere anneriva le dita operose con le loro unghie da avvoltoio. Polvere dormiva su opache spire di bronzo e argento, losanghe di cinabro, sui rubini, pietre lebbrose e cupo vinose. Tutti nati nella buia terra verminosa, fredde faville di fuoco, cattivo, luci splendenti nelle tenebre, ove arcangeli caduti gettarono le stelle dalla lor fronte, fangosi grugni di porco, mani scavano e scavano, li afferrano e li strappano via. Ella danza in una lurida penombra, ove bruciano resina e aglio. Un uomo di mare, barba color ruggine, sorbisce del rum da un bicchierotto e la sbircia. Lunga, silente foglia alimentata dal mare. Ella danza, volteggia, dimenando le natiche troiesche e le anche, sul ventre lubricole ballonzola un uovo di rubino. Il vecchio Russell, con una pelle di camoscio unta e bisunta, riforbiva la sua gemma, la rigirava e l'avvicinava alla punta della sua barba di vecchio Mosè. Nonno scimmione che si mangia con gli occhi un tesoro rubato. E voi che strappate antiche immagini dalla terra sepolcrale, parole dissennate dei sofisti, Antistene, scienza delle droghe, grano splendido e immortale eretto da eternità ad eternità. Due vecchie che avevano appena preso una boccata d'aria salmastra procedevano faticosamente attraverso Irish Town lungo la via di London Bridge, una con un ombrello stanco, sporco di sabbia, l'altra con una borsa da levatrice in cui sbattevano 11 telline. Il ronzio di sferzanti cinghie di trasmissione e il ron-ron di dinamo della centrale elettrica incitarono Steven a esistere ancora. Esseri senza essere. Fermo. Pulsazione sempre fuori di te e la pulsazione sempre dentro. Il tuo cuore di cui tu canti. Io tra loro. Dove? Tra due mondi ruggenti, là dove essi turbinano. Io. Frantumarli uno e due. Ma anch'io, stordito per il colpo. Frantumatemi voi che potete. Ruffiana e macellaio erano le parole. Ehi, dico, ma non subito, un'occhiata in giro. Sì, verissimo, grandissimo e meraviglioso, e segna il tempo che è una bellezza. Dice bene, signore. Un lunedì mattina. Era così, davvero. Steven scese per Bedford Row, battendosi il manico del bastone di frassino su una scapola. Nella vetrina di Cloisy una sbiadita stampa del 1860, Heenan contro Sayers, attirò la sua attenzione. Sostenitori con gli occhi fissi e cappelli in testa stavano ritti intorno al quadrato cinto dalle corde. I pesi massimi, con cingi lombi minimi, si porgevano cortesemente l'un l'altro pugni nodosi e pulsano, cuori d'eroi. Si voltò e si fermò davanti al banchetto messo di sghembo. 2 pence l'uno, disse il venditore. 4 per 6 pence. Pagine sbrindellate. L'apicoltore irlandese. Vita e miracoli del curato d'Ars. Guida tascabile di Killarney. C'è caso che ci trovi qualcuno dei miei premi scolastici dati impegno? Stefano Dedalo, alumno ottimo, palmam referenti. Padre Conmi, avendo letto le prime ore canoniche, attraversava il borgo di Donnycarney, mormorando i vespri. Forse era troppo bella la rilegatura. Questo cos'è? Ottavo e nono libro di Mosè. Il segreto di tutti i segreti. Il sigillo di Re Davide. Pagine segnate dal pollice, lette e rilette. Chi è passato di qui prima di me? Come ammorbidire mani screpolate. Ricetta per l'aceto di vino bianco. Come si conquista una donna? Questo è per me. Dire la seguente formula magica, 3 volte a mani giunte. Se el hilo ne bracada femininum, amor me solo, sanctus, amen. Chi l'ha scritto? Scongiuri e invocazioni del beato abate Pietro Salanca rivelati a tutti i veri credenti. Buoni quanto gli scongiuri di qualsiasi altro abate, come quelli di Gioacchino Brontolone. Giù, zucca pelata! O ti peleremo quei 4 peli. Che fai qui, Steven? Le spalle alte e il vestito sciatto di Dilly. Chiudi il libro presto, non farlo vedere. E tu che fai? Disse Steven. Un volto stuardo da Carlo il senza pari, riccioli lenti spioventi dalle parti. Si accendeva quando lei si accoccolava ad alimentare il fuoco con le scarpe scalcagnate. Le ho raccontato di Parigi. Sempre l'ultima ad alzarsi, sotto un coltrone di soprabiti vecchi, gingillandosi con un braccialetto di orpello, regalo di Dan Kelly. Nebra cada femininum. Che cos'hai lì? Chiese Steven. L'ho comprato sull'altro banchetto per un penny, disse Dilly ridendo nervosamente. Vale niente? Dicono che abbia i miei occhi. Gli altri mi vedono così, vivi. Lungimiranti e arditi, ombra del mio spirito. Le prese di mano il libro senza copertina. Grammatica elementare francese di Chardenal. Che l'hai comprato a fare? Chiese. Per imparare il francese? Ella annuì, arrossendo e stringendo le labbra. Non mostrarti sorpreso, è naturale. Toh, disse Steven. Va benissimo. Attenta che Maggie non vada ad impegnartelo. Scommetto che tutti i miei libri sono spariti. Qualcuno, disse Dilly, siamo stati costretti. Sta affogando. Hagenbeit, salvala! Hagenbeit! Tutti contro di noi. Mi farà affogare con sé. Occhi e capelli, lente spire di capelli algosi attorno a me, al mio cuore, alla mia anima. Verde morte salmastra. Noi. Hagenbeit of Inuit, di coscienza rimorso, desolazione, desolazione. Hola, Simon, disse padre Coley, come si va? Hola, Bob, vecchio mio, rispose Mr. Dedalus, fermandosi. Si strinsero rumorosamente le mani davanti a Reddy e figlia. Padre Coley si lisciava spesso i baffi all'ingiù con la mano a coppetta. Che c'è di bello? Disse Mr. Dedalus. Non un granché, disse padre Coley. Sono barricato in casa, caro Simon, con 2 uomini che ronzano intorno cercando di fare irruzione. Bellina questa, disse Mr. Dedalus. Di chi si tratta? Oh, disse padre Coley, un certo strozzino di comune conoscenza. Con la schiena rotta, vero? Chiese Mr. Dedalus. Proprio lui, Simon, rispose padre Coley. Reuben della tribù omonima. Stavo giusto aspettando Ben Dollard. Devi dire una parolina a Long John per farmi levar di torno quei due. Voglio solo un po' di tempo. Guardò con vaga speranza su e giù per il lungo fiume, col grosso pomo d'Adamo sporgente. Lo so, disse Mr. Dedalus annuendo. Povero vecchio Ben Birroso, lui fa sempre del bene a qualcuno. Aspetta! Inforcò le lenti e guardò un istante verso il ponte di ferro. Eccolo, per Dio, disse. Armi e bagagli. Il largo vestito blu e il cappellone di Ben Dollard, sulle brache larghe, attraversarono il lungo fiume, venendo dal ponte di metallo a grandi passi. Venne verso di loro Dambio, grattandosi attivamente dietro le falde della giacca. Mentre si avvicinava, Mr. Dedalus lo salutò con un «Acchiappate quell'uomo coi calzoni sbrendoloni! Acchiappatelo presto!» disse Ben Dollard. Mr. Dedalus misurò con freddo disprezzo e rabondo vari particolari della figura di Ben Dollard. Poi, voltandosi verso padre Coley, Con un cenno, mormorò sogghignando. Bello indumento, vero, per una giornata estiva. Ma insomma, che Dio maledica in eterno l'anima tua, ringhiò furiosamente Ben Dollard. Ai miei tempi ho buttato via più vestiti di quanti tu ne abbia mai visti. Fermatosi vicino, irradiò un sorriso, prima su di loro e poi sul suo ampio vestito, da vari punti del quale Mr. Dedalus spazzolava batuffoli di polvere, dicendo: Però è stato fatto per qualcuno che scoppiava di salute, Ben. Alla malora il giudeo che lo ha tagliato, disse Ben Dollard. Grazie a Dio non è stato ancora pagato. E come va quel tuo basso profondo, Benjamin? Chiese padre Cole. Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdall Farrell, mormorando, gli occhi vitrei, percorreva a grandi passi la strada davanti al club di Kildare Street. Ben Dollard si accigliò. E facendo subito una bocca da cantore, emise una nota profonda. Oh, disse. Che stile, disse Mr. Dedalus, approvando il rombo profondo. Che ne dite? Disse Ben Dollard. Non c'è poi malaccio, eh? Si volgeva ora a uno, ora all'altro. Può andare, disse padre Coley, approvando anche lui. Il reverendo Hugh C. Love si muoveva dalla vecchia sala capitolare dell'abbazia di Santa Maria, oltrepassando la raffineria James e Charles Kennedy, accompagnato dai Geraldini belli e ai tanti, verso il Tolsel, oltre il guado degli ostacoli. Ben Dollard, sbandando fortemente verso le vetrine dei negozi, faceva loro strada con le gaie dita per aria. Venite con me all'ufficio del sottosceriffo, disse. Voglio far vedere che rara bellezza si è preso Rock per usciere. È un incrocio tra l'Ubengula e l'Incheon. Vale la pena di vederlo, credetemi. Venite! Ho visto 5 minuti fa per caso John Henry Menton nella bodega e mi troverò per le terre se non. Aspettate un po', siamo sulla pista giusta, Bob, credimi. Solo pochi giorni, diglielo. Fece ansiosamente padre Cowley. Ben Dollard si fermò a guardare, aperto il tonante orificio, un bottone del suo vestito che ondeggiava ciondoloni dalla parte lucida, attaccato al filo, mentre lui si toglieva le pesanti croste dagli occhi per sentire meglio. Come sarebbe a dire pochi giorni? Tuonò. Il padrone di casa non ha fatto un pignoramento? L'ha fatto, disse padre Coli. Allora il mandato del nostro amico non vale il pezzo di carta dove è stampato, disse Ben Dollard. Il padrone ha la precedenza. Gli avevo detto tutti i particolari. 29 Windsor Avenue. Il nome è Love. Esatto, disse padre Coli. Il reverendo Mr. Love è pastore in qualche posto di campagna. Ma sei sicuro di quel che dici? Lo può raccontare a Barabba da parte mia, disse Ben Dollard, che può anche ficcarsi quel mandato dove la Bertuccia ci metteva le noci. Baldanzosamente trascinò avanti padre Coli, attaccato alla sua massa imponente. Mi pare che fossero noccioline, disse Mr. Dedalus, lasciando ricadere le lenti sul davanti della giacca, seguendoli. Il ragazzino se la caverà abbastanza bene. Disse Martin Cunningham nell'uscire dal cancello di Castle Yard. Il poliziotto accennò un saluto. Dio la benedica, disse Martin Cunningham allegramente. Fece un cenno al fiaccheraio in attesa e questi dette una scrollata alle redini e si mosse verso Lord Edward Street. Bronzo accanto a oro. La testa di Miss Kennedy accanto alla testa di Miss Deuce. Apparvero dietro le tendine dell'Ormond Hotel. Sì, disse Martin Cunningham toccandosi la barba. Ho scritto a padre Colmy e gli ho esposto tutto il caso. Potrebbe provare col nostro amico, Mr. Power, suggerì voltandosi. Boyd, disse seccamente Martin Cunningham. Per l'amor del cielo. John Wise Nolan, rimasto indietro a leggere la lista, li seguì svelto giù per la collina di Cork. Sugli scalini del municipio, il consigliere Nannetti, discendendo, salutò l'assessore Coley e il consigliere Abraham Lyon, che ascendevano. La carrozza del governo, vuota, girava in Exchange Street superiore. «Guarda qui, Martin!» disse John Wise Nolan, raggiungendoli presso gli uffici del Mail. Vedo che Bloom si è sottoscritto per 5 scellini. Giusto, disse Martin Cunningham, prendendo la lista, e li ha cavati fuori i 5 scellini. E senza far parola, disse Mr. Power. Incredibile, ma vero, aggiunse Martin Cunningham. John Wise Nolan spalancò gli occhi. Dirò che nell'ebreo v'è molta cortesia. Citò elegantemente. Scesero per Parliament Street. Ecco Jimmy Harry, disse Mr. Power, che fila da Cavana. Benone, disse Martin Cunningham. Si vada. Davanti alla Maison Claire, Blazes Boylan intercettò il cognato di Jack Mooney, aggubbito, brillo, che si dirigeva verso il rione delle Liberties. John Wise Nolan rimase indietro con Mr. Power, mentre Martin Cunningham prendeva per il gomito un galante omarino in completo picchiettato che passava davanti agli orologi di Mickey Anderson a passi affrettati e mal sicuri. Al vice segretario comunale gli fanno un po' male i calli, disse John Wise Nolan a Mr. Power. Svoltarono l'angolo, proseguendo in direzione della bottiglieria a Cavana. Si trovarono davanti la carrozza governativa vuota, ferma alla porta Essex. Martin Cunningham, sempre parlando, fece vedere più volte la lista che Jimmy Harry non degnava di uno sguardo. Ecco anche Long John Fanning, disse John Wise Nolan, in grandezza naturale. L'alta figura di Long John Fanning riempiva il vano della porta dove stava. Buongiorno, signor sottosceriffo, disse Martin Cunningham, mentre tutti si fermavano a salutare. Long John Fanning non si mosse per lasciarli passare. Spostò con aria decisa il sigaro Harry Clay e i suoi grandi occhi feroci passarono in rassegna i loro volti con intelligente cipiglio. Sono intenti alle loro pacifiche deliberazioni, padri coscritti, disse con aria ricca di acredine al vice segretario comunale. Stan facendo un putiferio dell'altro mondo, disse irritato Jimmy Harry, con la loro maledetta lingua irlandese. Dov'era il questore? Voleva sapere, per mantenere l'ordine nella sala del consiglio. E il vecchio Barlow, il mazziere, va ad ammalarsi d'asma. Niente mazza sulla tavola, tutto in disordine, niente numero legale, e perfino Hutchinson, il sindaco, andato a Llandudno, e il piccolo Lorcan Sherlock che gli fa da locum tenens. Maledetta lingua irlandese, lingua dei nostri antenati. Long John Fanning soffiò un pennacchio di fumo dalle labbra. Martin Cunningham parlava, attorcendosi la punta della barba, ora al vice segretario comunale e ora al sottosceriffo, mentre John Wise Nolan se ne stava cheto. Qual era dei Dignam? Chiese Long John Fanning. Jimmy Harry fece una smorfia e alzò il piede sinistro. Ai, i miei calli! Disse lamentosamente. Venga su, per amor del cielo, che mi voglio mettere un po' a sedere. Uff, attenzione! Stizzosamente si aprì un passaggio a fianco di Long John Fanning. Entrò e salì per le scale. Venga un po' su, disse Martin Cunningham al sottosceriffo. Non credo che lei lo conoscesse, ma può darsi di sì. John Wise Nolan e Mr. Power li seguirono all'interno. Era una personcina a modo, disse Mr. Power alla schiena vigorosa di Long John Fanning, che ascendeva verso Long John Fanning nello specchio. Piuttosto basso, era quel Dignam dello studio Menton, disse Martin Cunningham. Long John Fanning non se lo ricordava. Rimbombò nell'aria uno scalpitare di zoccoli. Cos'è? Disse Martin Cunningham. Tutti si volsero fermandosi. John Wise Nolan ridiscese. Dalla fredda ombra del vano della porta vide i cavalli passare in Parliament Street, bardature e lucidi pasturali sfavillanti nel sole. Gaiamente passarono davanti ai suoi freddi occhi ostili, non troppo veloci. In sella ai cavalli di testa, caracollanti cavalli di testa, cavalcavano i battistrada. Che cos'era? Chiese Martin Cunningham mentre continuavano a salire le scale. Il Lord Luogotenente Generale e Governatore Generale d'Irlanda, rispose John Wise Nolan dal fondo della scala.